buon Natale a tutti. Siamo un po' imbarazzati a essere qua da soli in una giornata, sì, in cui gli unici che lavorano sono i guidatori di mezzi pubblici e no, noi. Ma capo, imbarazzati nel senso che dopo il pranzo natalizio, tutto, sì, quell'abbondare, ci siamo scapicollati qui all'asilo, sì, e adesso insomma c'è un po' di... È tutto rimasto lì. Noi dicevamo che il 90% della popolazione italiana ieri, diciamo, era a fare acquisti per il Natale. Oggi direi che il 90% della popolazione italiana è qui che ascolta Chiedo Asilo in coma calorico e o etilico. Vabbè, ma visto che ci siamo solo noi, sdraiamoci e uniamoci, Drago, al coma collettivo. Ma sì, dai, perché con... no? Sì. Ma no, ma chi è? Dai, pronto? Come? Ah, sì, sì, certo. Scusate. Ma chi era? No, erano 35 ragazze nubili chiuse in un call center che ci hanno detto che forse a Natale non è che lavorano soltanto i guidatori di mezzi pubblici, io e te. 35 ragazze tutte nubili. Tutte nubili, anche loro lavorano. Chiuse nel call center. Sì, con le porte chiuse dall'esterno perché non escano, perché è Natale. Ti sei fatto dare l'indirizzo. Ma per cosa? Per denunciare un caso di sequestro di persona collettivo. Ma quale sequestro di persona? C'erano 35 ragazzi nubili. Ragazzi nubili. C'erano 35 ragazze nubili. Ho capito. Annoiate. Il pomeriggio del Natale, quindi... senza cavaliere, Drago. Vabbè, ti fa subito pensare. Ma poi perché nubili? Perché si usa così nei call center, non le sai queste cose? No, allora assumono ragazze perché le paghi meno di default. E poi nubili perché speri che non restino subito incinte, capito? Questa mentalità del 2012, già, quasi 2013, ti sembrerà strano, ma è proprio così. L'ufficio del personale ragiona così. Ragiona così. Vabbè, buon Natale a tutte le ragazze nubili chiuse in un call center, sì, che stanno trascorrendo questa giornata con le cuffie in testa. Certo. Come noi del resto. Un consiglio: nelle cuffie fate circolare Chiedo Asilo. Oh. Ci sono i podcast. Giusto. 10 minuti ogni puntata. In 8 ore. Dunque, in 8 ore, quante puntate di Chiedo Asilo puoi ascoltare? Aspetta. Secondo me, allora. Dunque, vuoi sapere il numero di puntate? O... Lascia stare, dai, lascia stare. Chiedo Asilo! Despot's heel is on thy shore, Maryland, my Maryland. Ma scusa, qualcuno si chiederà che parole ha in questo particolare caso Tannenbaum, no? Dice che parole avrà, che cosa dice? Tutti che se lo chiedono, perché c'è questa proprio... canzone è di Natale, cioè non è nemmeno di Natale, non è Tannenbaum. No. Cioè la melodia sì, però le parole sono quelle dell'inno dello stato del Maryland. Infatti dice Maryland. Ogni stato americano ha il suo inno e il Maryland ha scelto una via comoda usando una nota melodia di Natale. Vabbè, per questo anche l'Iowa. Quelle belle cose che si imparano qui all'asilo il giorno di Natale. Pensa quanti 50 milioni di italiani che stanno imparando che sì, il Maryland, sono tutti quelli, me li vedo tutti qui, è come vederli. Va bene, allora, per non fare il nichilista, racconta ai nostri bambini all'ascolto la storia dell'inno dell'Iowa, che tu la sai benissimo, la racconti, mi fai sempre morire da ridere. Davvero? Sì, dai, vai. Perché The Song of Iowa, ha un autore riconosciuto, che è S.H.M. Byers. Sì. Che così ha descritto il momento in cui gli venne l'idea di scrivere queste gloriose parole. Allora io sono musica di Tannenbaum. Sono S.H.M. Byers. Fallo tu, io ti faccio il sottofondo. Fui catturato e fatto prigioniero nella grande battaglia di Lookout Mountain. Mi portarono in seguito nella prigione di Libby a Richmond, Virginia. Sono stato là 7 mesi, chiuso in una stanza. Spesso arrivavano dei ribelli che erano stati arrestati e, per fortuna, erano persone allegre. Un giorno stavano cantando la canzone My Maryland, che ha la stessa melodia della canzone popolare tedesca O Tannenbaum. E io, guardando fuori dalla finestra, con le sbarre, il mio ukulele stonato, dissi a me stesso: un giorno vorrei che questa canzone avesse delle parole sincere sul mio stato, l'Iowa. Molti anni dopo, nel 1897, Byers realizzò il suo desiderio e scrisse dei versi patriottici sulla melodia di O Tannenbaum. Bello questo documentario, mi piace un casino. Bisogna fare più la voce da più documentari. Falla. Il giorno dopo, un concertista francese della Foster Opera House di Des Moines, Iowa, dov'è lo Des Moines? Iowa, cantò la nuova canzone su richiesta di Byers. Fu un grande successo e furono chiesti numerosi bis. Bis. Numerosi, 3. Questa almeno è la storia ufficiale. L'ho letta su un libro. Ecco, la storia non ufficiale invece è più confusa. Sembra che l'inno dell'Iowa sia stato scritto da Ludwig Steinermatt, un ufficiale prussiano che si era trasferito in America alla fine del secolo. Steinermatt aveva preso in prestito la melodia di O Tannenbaum per motivi sentimentali legati alla sua patria. Esiste un'antica registrazione fatta dallo stesso Steinermatt. Sì, ma non sei tanto documentaristico però. Ma questo è in più alla... come si chiama? Minoli. Minoli. Ma che Minoli? No. Pinoli. A Natale. You ask but Lent I love the best. Iowa, tis Iowa. From yonder Mississippi stream to the Missouri's waters gleam. Oh, fair it is as poets dream. Iowa, tis Iowa. She yonder fields of tufts and corn. Iowa, in Iowa. See how her bantus prairies shine to yonder sunset's purpling line. Oh, happy land, oh, land of mine. Iowa, oh, Iowa. And she has me whose laughing eyes. Iowa, oh Iowa. Oh, oh happiest fate that there was known. Such eyes to shine for one alone. To call such beauty all his own. Like a rolling stone. Iowa, oh Iowa. Read the story of thy past, Iowa, oh Iowa. So long as time the cycle runs, all nations weep the fallen ones. Thou not forget thy patriot's sons, Iowa, oh Iowa. Oh, avete sentito? Questa era una registrazione dello, in fine 800, inizio 900, proprio con l'acetato. Sì, ma cosa è successo alla fine? Non si capiva. Boh, sembrava un intervento di Bob Dylan, uno che sembrava... No, Bob non è che sembrava, era Bob Dylan. Ma in un'incisione dei primi del 900? Ma perché? Quanti anni ha Bob Dylan? No. Pronto? Sì, va bene, scusate. Va bene, scusa. Chi è? Le 35 ragazze nubili. Chiedono cosa fai questa sera. Tutte 35? Sì. Stasera io Tito Divano. Ma come? Sono due verbi. Ormai che senso? Tito e Divano. Sono due. Cosa fai stasera? Tito Divano. Voci del verbo titare. Ah, io Tito e Divanare. Tito, allora non ci sei per i ragazzi, dico che non ci sei. Tutte non ci stanno sul divano. Un paio sì, dai. Tito, dai, scherzavo. Sì, va bene, anche stasera solo io e te. E che ci bravo cani. Sei ci bravo cani. Il ritmo è una roba bestiale per te. Parapara para ta ta ta ra ta ra ta più veloce. Vato tre fa what. Sì, anche le note, no, che sì. Basta. Vabbè.